tutti i luoghi e in anche epoche diverse della storia del cinema. Andiamo dagli anni 40 con To Be or Not To Be, che in italiano ha come titolo Vogliamo Vivere, fino ad arrivare ai film anche molto, molto recenti come Nina di Joe Wright, che è un film americano con Keira Knightley e Jude Law. E niente, attraversiamo anche diverse cinematografie, appunto, da Hollywood al cinema italiano, ad alcune cinematografie magari meno conosciute, come il film dedicato ai fratelli Karamazov di Petro Zelenka. E niente, insomma, cerchiamo di dare un panorama abbastanza ampio e un'offerta di grande qualità al pubblico che ci verrà a trovare. Sono dei giorni fissi settimanali? Sono il sabato, i sabati e i venerdì, okay. Fondamentalmente. Abbiamo anche un appuntamento di martedì con Pallottole su Broadway di Woody Allen il 21 agosto. Per il resto, appunto, partiamo dal 28 luglio, sabato, e arriviamo fino al sabato 25 agosto. E ci sono chiaramente dei link che rimandano per maggiori informazioni e dettagli a qualche spazio web? Sì, certamente. Si possono trovare tutte le informazioni su labottanta.it, 80 in numero, e anche su teatrotascabile.org. Benissimo. Dove troviamo tutto il programma. Ricordiamo allora la rassegna Cine Tascabile, il cinema racconta il teatro. 10 serate a Bergamo, Chiostro del Carmine in Città Alta, sede del Teatro Tascabile, dal 28 luglio al 25 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Visinoni di Lab 80. Sergio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie mille. Siamo in collegamento telefonico con Azzurra Utta per parlare del progetto Post Kino, cinema itinerante in Puglia, 4 tappe dal 2 all'8 agosto. Azzurra, ben trovata. Grazie, ciao. Ce lo presenti il progetto? Post Kino è un progetto che sto realizzando con altri 3 soci, altri 3 amici, con i quali abbiamo, diciamo, realizzato già altri progetti a Milano, soprattutto perché torniamo, diciamo, in Puglia dopo un percorso svolto lì in diversi settori. Il progetto Postino è un cinema itinerante e multisensoriale, nel senso che stiamo cercando di offrire, oltre alla proiezione di film che in realtà sono grandi classici, un contesto particolare e insolito, quindi delle location molto suggestive e comunque legate anche alla proiezione in programma, la serata. Per farvi un esempio, non so, la preview di Poschino si è svolta sulla terrazza del Portino di Sant'Antonio a Bari Vecchia, e la proiezione andata in onda era quella del Poschino con Luigi, e insomma, vedere il Postino con alle spalle il mare, il lungomare di Bari, è senz'altro qualcosa di molto più suggestivo. Oltre a, diciamo, questo concetto fondamentale, quindi di portare il cinema in luoghi dove il cinema non c'è e comunque luoghi molto suggestivi o insoliti, uniamo degli eventi speciali, diciamo, quindi delle esperienze in più che lo spettatore può fare, che possa stare dal reading di poesie come quello che ci sarà, anzi domani ci sarà proprio un reading di poesie, ma quindi qualcosa di molto più coinvolgente, a Ruvo di Puglia ad esempio, oppure delle musicazioni dal vivo di alcune pellicole, ma pure di alcuni artisti, o piuttosto che laboratori realizzati, cioè da realizzare con bambini, ecco, quindi delle esperienze che possono spaziare tantissimo. Ci parli anche un po' di questo gruppo che si è messo insieme per realizzarlo? Sì, allora noi siamo Azzurra Utta, Vittoria Basile, Mariangela Castellano, Emanuele Miccoli, e ci siamo conosciuti, diciamo, tutti a Milano, dove in realtà prima avevamo intrapreso anche un altro progetto ancora abbastanza attivo, che si chiamano Name Space,